giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. È una storia che solo a raccontarla mette paura. È la storia di una normale famiglia italiana, di una villetta di legno e pietra a Montroz, sulle colline intorno a Cogne. 1500 abitanti alle porte di Aosta, nel parco del Gran Paradiso. Una casa relativamente isolata, in una zona priva di vegetazione, in una piccola frazione dove non vi è un passaggio occasionale di persone diverse dai residenti e dove estranei verrebbero sicuramente notati. Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi, madre e padre di Davide, 6 anni, Samuele, 3 anni. Una famiglia come tante ce ne sono nel nostro paese, un lavoro sicuro, qualche soldo messo da parte, una bella casa arredata, molte amicizie in paese, nulla di più. Mattina del 30 gennaio 2002. Alle 6 la madre di Samuele, Anna Maria Franzoni, chiama il 118 perché accusa un fortissimo mal di testa. Alle 7.30 Stefano Lorenzi, il padre, si reca al suo posto di lavoro nel vicino paese di Introd, elettricista e consigliere comunale a Cogne. Alle 8.16 anche la madre di Samuele esce di casa per accompagnare alla fermata della scuola bus l'altro figlio, Davide. Alle 8.24 Anna Maria rientra in casa. Le 8.28. Anna Maria Franzoni telefona al 118 e lancia l'allarme. Mio figlio Samuele sta morendo, venite. Poi chiama 2 vicine di casa, Daniela Ferrod e la psichiatra Ada Satrani. Le 2 donne sono le prime ad entrare nella villetta dei Lorenzi. Alle 8.52 l'ed il soccorso trasporta il piccolo Samuele dalla villetta di Cogna all'ospedale di Aosta. Mancano 5 minuti alle 10, circa 1 ora e mezza dopo il delitto. I medici del nosocomio dichiarano che il bambino è morto. Le indagini stabiliscono che Samuele è stato ucciso da 15 colpi di arma da taglio. È stato aggredito nella camera da letto dei suoi genitori. Il piccolo era sveglio quando è stato colpito. Il delitto è avvenuto prima delle 8.29, l'ora d'arrivo della signora Ferrod. A quel punto gli inquirenti sono convinti. Anna Maria Franzoni ha assassinato il figlio Samuele. La madre viene arrestata, ma non confessa e si dichiara innocente. Raffaella Calandra intervista subito il procuratore capo della Repubblica di Aosta, Maria del Savio Bonaudo. L'unica cosa che vi posso dire è che non ha confessato. Per il resto ha risposto alle domande. Si è detta innocente? Sì. Quindi ha ribadito la sua estraneità? Sì, sì. La signora non solo non ha confessato di aver commesso il reato, ma si è dichiarata innocente, questo glielo posso dire. Non sono le parole che possono convincere oppure no, o gli atteggiamenti che possono convincere oppure no, né in un senso né nell'altro, le indagini si fanno sulle prove. Il primo avvocato di Anna Maria Franzoni è Carlo Federico Grosso. Ecco le sue parole poco dopo la decisione del Tribunale del Riesame che scarcera la madre del piccolo Samuele. Certo che un avvocato che si impegna come mi sono impegnato io per ottenere un risultato e lo ottiene non può che essere soddisfatto. Devo dire che ieri ho cercato in tutti i modi di convincere i giudici della mia richiesta principale o quantomeno della mia richiesta subordinata. Certo che si è che o la richiesta principale, la mancanza di indizi o la richiesta subordinata, la mancanza di evidenze cautelari è stata ritenuta valida ed efficiente. Ma la storia processuale del delitto di Cogne è anche uno scontro tra le perizie disposte dall'accusa e dalla difesa. Sentiamo Marcello Vino Nuovo. È il 16 settembre 2003 quando il GUP di Aosta e Eugenio Gramola dispone una superperizia per far luce sul delitto del piccolo Samuele. Hermann Schmitter, collaboratore della polizia criminale tedesca, si occupa delle traiettorie degli schizzi di sangue sul luogo del delitto. I professori Piero Boccardo e Vincenzo Pascali svolgono esami sul frammento osseo trovato nel letto e su tracce di sangue sugli zoccoli di Anna Maria Franzoni. Secondo l'accusa, la superperizia conferma le ipotesi del RIS di Parma disposte dalla procura. L'assassino indossava il pigiama della Franzoni. Ma l'avvocato della difesa, Carlo Taormina, non è d'accordo. Si avvale della consulenza del medico Bernd Brinkmann. Dopo la sentenza di condanna della Franzoni, Taormina presenta un esposto. Il 28 luglio i consulenti della difesa Enrico Manfredi e Claudio Sfera avrebbero trovato nella villetta tracce che scagionerebbero l'imputata. La procura di Aosta dispone una nuova perizia e passa le carte a Torino, dove i PM Giuseppe Ferrando e Anna Maria Loreto accusano i due periti di aver creato le prove. Il reato è frode processuale. Ma la difesa insiste. Nella villa di Cogne ci sono impronte che possono fare chiarezza sull'omicidio. Per l'avvocato Carlo Taormina, l'accusa della procura di Aosta contro i consulenti Manfredi e Sfera cadrà a breve. È stato accertato che si tratta di una forma di inquinamento per essere stata rilasciata una impronta inavvertitamente da uno degli operatori che stavano nella villetta di Cogne, e quindi la vicenda si avvia alla conclusione. Ma tutto il resto delle altre impronte ritrovate nel garage e all'esterno dell'abitazione, tutto è rimasto intatto, per cui l'impianto difensivo assolutamente rimasto saldo come lo era all'origine. Voi potete affermare ancora adesso con certezza di conoscere il nome dell'assassino? Noi siamo fermamente convinti che abbiamo dato tutte le indicazioni utili per andare nella direzione giusta. Le nostre convinzioni non possono valere più che quello che realmente sono fino a quando l'autorità giudiziaria non avrà portato a compimento le indagini di sua competenza. Nelle ricostruzioni, nel trattare il delitto di Cogne, sembra quasi sentirsi come una specie di opinione pubblica quasi convinta della colpevolezza della Franzoni. Nei primi sei mesi dell'inchiesta la difesa è stata totalmente assente da qualsiasi possibile confronto pubblico, ma hanno parlato soltanto gli accusatori e gli investigatori. Mi auguro che i giudici della Corte d'Assise di Appello di Torino sappiano, come dire, liberarsi di questa cappa di piombo. Carmelo Lavorino, di professione criminologo, è stato uno dei primi che ha lavorato sulle impronte lasciate nella casa della famiglia Lorenzi. Raffaella Calandra lo ha intervistato. Ci troviamo di fronte a una intrusione per effettuare un dispetto, uno sfregio, una sfida all'interno della camera da letto. Trovando il bambino, l'assassino è entrato in tilt, è entrato in panico, è entrato nel cosiddetto rito appetitivo oppure overkilling e ha finito la sua azione bestiale. Mentre colpiva il bambino, ha visto Anna Maria Franzoni che tornava, ha ripreso il controllo ed è salito al piano di sopra. Ha atteso che la Franzoni entrasse, tanto che la Franzoni dice alle 8.24 sono entrata, ho chiuso la porta dall'interno lasciando le chiavi, sono scesa. Invece quella porta, dopo circa tre quarti d'ora, risultava essere stata aperta senza che nessuno dei 12 soccorritori abbia mai aperto. L'assassino aveva il doppione delle chiavi, aveva organizzato un'intrusione per infilarsi in camera da letto per un dispetto o qualcosa di particolare, una sfida, e io vedo qui una mano prettamente al 70% del tipo femminile. Non mi riferisco assolutamente alla vicina, non mi riferisco alla dottoressa, non mi riferisco alla dottoressa che è venuta la mattina e non mi riferisco nemmeno ai coniugi della sera prima. E allora, un delitto efferato, compiuto in piena lucidità, contro un bambino di 3 anni. Questo non è un gesto di mera follia. Per questo motivo risultano inopportune indagini che si spostano dai tribunali ai programmi televisivi, come Porta a Porta, con imputati, avvocati, procuratori che si trasformano in star del piccolo schermo. Per i processi ci sono le aule giudiziarie. Soltanto in quella sede è possibile vagliare indizi, prove, dichiarazioni. E solo alla fine si potrà giudicare.